Conti fatti, la storia e la memoria dell'economia di Dino Pesole. Hey! Chi siete? Siamo due che... Cosa fate? Cosa portate? Niente, roba... Sì, ma quanti siete? Due, siamo io e lui, dietro non c'è... Un fiorino. Si paga. Un fiorino. Grazie. Hey! Chi siete? Quelli di prima sono venuti a prendere il sacco. Cosa portate? Porto... Olive, caciotte, pane, un po' di... Sì, ma quanti siete? Uno, io sono entrato e sono uscendo, no? Un fiorino. Che uno entra e esce, sbaglia sempre un... L'avrete senz'altro riconosciuta, è la famosa scena del film del 1984 Non ci resta che piangere, in cui Massimo Troisi e Roberto Benigni si trovano improvvisamente proiettati indietro nel tempo, al 1492. È un passaggio doganale dell'epoca, viene chiesto loro ripetutamente di versare un fiorino. E proprio del fiorino vogliamo parlarvi questa sera, per portarvi anche noi molto indietro nel tempo, fino alla prima metà del 200. E raccontarvi la storia di Firenze, una città allora in grande espansione, tanto da divenire in breve la principale piazza finanziaria del tempo. A fare la fortuna di Firenze fu proprio il fiorino, in particolare il fiorino d'oro, che cominciò a essere coniato nel 1252. È una storia che vale la pena di raccontare perché presenta non pochi spunti di interesse per noi europei, che solo di recente abbiamo conquistato a fatica la moneta unica, l'euro, senza però che adesso sia stata affiancata la condivisione delle politiche economiche e fiscali, una costruzione ancora tutta da compiere dunque. La Firenze del 200 ci invia questo messaggio. Allora, come oggi, è la fiducia l'elemento fondamentale che muove l'economia. Il fiorino ebbe successo perché poté godere della fiducia di gran parte delle potenze economiche, politiche e commerciali del tempo. L'argomento è stato oggetto lo scorso 5 giugno di una interessante conferenza tenuta al Festival dell'Economia di Trento da una vera autorità in materia, medievista di fama internazionale, autore di numerosi fondamentali testi di storia medievale e non solo, il professor Franco Cardini, cui diamo il benvenuto. Buonasera, professore. Tra la metà del 200 e gli inizi del 300, il fiorino d'oro di Firenze si impone come il mezzo di pagamento per eccellenza nel sistema degli scambi commerciali e delle transazioni finanziarie europee e assume il ruolo di moneta internazionale predominante, una moneta destinata in prevalenza alle transazioni finanziarie, dunque. Nel 1252 a Palazzo Vecchio, torchi azionati dall'acqua dell'Arno cominciarono a coniare la nuova moneta, del peso di 3,54 grammi. È la prima moneta d'oro coniata dopo la caduta dell'Impero Romano d'Occidente. Il nome deriva dal giglio, simbolo della città. Per evitare che le monete fossero cagliate e far sì che il loro peso fosse costante e garantito, gli ufficiali dell'arte verificavano il peso di ogni singolo fiorino, raccogliendo gli esemplari ripesati in piccole borse suggellate. Erano i cosiddetti fiorini di suggello, garantiti tanto nella lega che nel peso. Le pene erano severissime contro i falsari. I controlli costanti e la stabilità della lega fecero del fiorino una delle monete auree più apprezzate in Europa tra Medioevo e Rinascimento. Allora, professor Cardini, parliamo proprio del fiorino d'oro. Come era composto e quali furono i motivi per cui Firenze decise di avviarne il conio nel 1252? Nel 1252 c'è una situazione particolare a Firenze, gli imprenditori, i mercanti, gli artigiani e gli imprenditori sono soprattutto quelli che organizzano il processo di produzione dei panni di lana, che è la principale manifattura nel mondo medievale, si potrebbe dire che è l'industria del Medioevo, molto fra virgolette, e finalmente, dopo essere stati per molto decenni il nervo della società, riescono a, diciamo in termini semplici, ad andare anche al governo. Certo. A quel punto è una società matura, una società che si è già proiettata in tutta Europa, tutti gli anni vanno alla fiera di Champagne e insieme ai genovesi e ai pisani, perché a Firenze non c'è il mare, quindi non c'è una forza marittima fiorentina, ma i fiorentini, soprattutto con i pisani, amici nemici pisani, vanno anche in oltremare, vanno in Grecia, vanno nel mondo degli stati crociati. Allora c'è il regno crociato di Gerusalemme, anche se Gerusalemme è già stata riconquistata. Ormai Firenze è proiettata in un giro internazionale di affari, decidono di dotarsi di una moneta forte. Non avrebbero avuto di farlo, soltanto l'imperatore poteva coniare moneta d'oro, ma l'imperatore è morto da 2 anni. E allora loro si infilano in questo procedimento semilegale nel grande giro internazionale, dove gli acquisti e le vendite non si fanno nella piccola moneta spicciola d'argento, ma si fanno in oro, e diventano titolari di una moneta, forte. Il fiorino d'oro, appunto. Sì. Di essere economisti per sapere quant'è importante essere titolari di una moneta. E infatti, professore, lei nella sua conferenza al Festival dell'Economia ha parlato, a proposito del fiorino, della fondamentale elemento della fiducia internazionale di cui poter godere il fiorino. E questo è l'elemento fondamentale. Il fiorino è naturalmente una moneta a corso reale, cioè largo 2 centimetri, pesa 3 grammi circa, 52-54, ha una lega che oscilla tra i 22 e i 24 carati, cioè è oro quasi puro, si mette un po' una piccola quantità d'argento o di rame per renderla un pochino meno malleabile, perché l'oro è molto morbido, e tutto questo resta invariato. Anche le crisi, e di crisi Firenze ne ha passate moltissime fra 2 e 500, cioè al tempo stesso della sua grande fioritura, fra il grande Medioevo e il non meno grande Rinascimento, però sono stati secoli anche duri, stati secoli di recessione demografica, di recessione economica. Non bisogna guardare il Rinascimento solo dal punto di vista della storia dell'arte, dal punto di vista economico-sociale fu un'età molto dura, ma Firenze riesce a superare abbastanza bene le crisi, fino almeno alla grande rivoluzione dei prezzi del 500, con la svalutazione dell'oro e dell'argento che vengono dal Nuovo Mondo, che creerà veramente una grande rivoluzione e un forte impoverimento. Sembra assurdo, arriva molto oro, molto argento, tutti pensano di diventare ricchi, invece succede esattamente il contrario. Ma fino ad allora, per 3 secoli, Firenze ha tenuto alto il suo prestigio economico e la sua prosperità, come del resto ha fatto Venezia con il Ducato, lo zecchino, che somiglia abbastanza al fiorino, anche apparentemente, anche esteticamente, perché erano monete su cui c'era una grandissima fiducia internazionale. Ovviamente le falsificazioni erano sempre possibili, però una falsificazione della moneta reale è diversa dalla falsificazione della moneta legale. Una moneta legale basta stampare dei fogli di carta che somigliano alla moneta buona. E per la moneta a corso reale bisogna pur metterci del metallo prezioso, bisogna pur metterci un peso adeguato, e quindi la falsificazione è più difficile a farsi, ma anche più difficile a scoprirsi. Bisogna dire che il fiorino si prendeva, è il caso di dirlo, a scatola chiusa. Un'ultima domanda. Circolava in sacchetti, sigillati praticamente. Professore, un'ultima domanda a proposito di crisi. Nel 1345 Firenze finì in bancarotta. E cosa accadde dall'epoca d'oro del fiorino? Firenze finisce in bancarotta, ma non per colpa del fiorino. Fiorino non c'entra nulla. Per colpa degli imprenditori, che erano degli aristocratici, i quali però avevano capito l'importanza del commercio e l'importanza della banca, e banca vuol dire essenzialmente prestito, e prestito naturalmente a interesse, e prestavano ad alto interesse, tanto è vero che la gente più povera preferiva andare agli ebrei, perché gli ebrei erano molto più onesti dei banchieri cristiani. Però i banchieri cristiani non prestavano ai poveri, non ci pensavano nemmeno, e infatti per quello nasceranno poi i Monti di Pietà. I banchieri cristiani facevano come fanno i banchieri oggi, prestavano ai ricchi, e in particolare prestano al Papa e all'Imperatore, e va bene. Il Papa e l'Imperatore non restituiscono mai, però danno dei privilegi giuridici che permettono di appaltare per esempio le imposte, e quelle sono una forte fonte di ricchezza. Poi siamo a metà 300, scoppia la guerra dei cent'anni, Non si sapeva ancora nel 300, sarebbe durata 100 anni, ma una cosa la si sapeva bene, che la guerra è sempre un business e che in guerra c'è sempre chi ci guadagna, certo. Lezione da ricordare anche oggi, no? Sì, quindi sì. Gli imprenditori fiorentini, la storia è sempre attuale, gli imprenditori fiorentini ci si buttano a pesce, i re di Francia e d'Inghilterra che hanno bisogno di soldi, soprattutto per ingaggiare eserciti mercenari, perché in quel momento la guerra si fa con queste imprese commerciali di militari che si autoprestano alle potenze combattenti, quindi hanno bisogno di una massa di denaro infinita. I fiorentini sono tranquilli, prestare al re di Francia, prestare al re d'Inghilterra vuol dire prestare a grandi potenze che restituiranno in maniera tale da far fare un business enorme, esatto. E invece no, e invece il re di Francia, soprattutto il re d'Inghilterra, non restituiscono un accidente, e questo naturalmente crea bancarotta. E questo determina la bancarotta. Benissimo, professore, la ringraziamo moltissimo per questi suoi chiarimenti e le auguriamo buona serata. Grazie, grazie. Arrivederci.